solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo.